Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buon venerdì. Allora, internet qualche volta ci semplifica la vita mettendo a disposizione molti strumenti utili, qualche altra volta invece ce la rende un po' più complicata. Pensiamo alla puntata che abbiamo organizzato mercoledì scorso sull'invio telematico dei CUD ai pensionati, una puntata per la quale mi hanno scritto anche alcuni ascoltatori dicendomi che sono stata poco rispettosa dei pensionati perché la procedura di stampa non è per niente facile. Io l'ho semplificata molto, l'ho fatta facilissima anche con il dirigente dell'INPS che abbiamo interpellato. A me non sembra di aver trattato in questa maniera l'argomento. Mi spiace se per qualcuno il messaggio passato è stato questo. In realtà mi sembra di essere stata anche piuttosto chiara con il dirigente dell'INPS, al quale abbiamo detto che per la verità hanno notevolmente sottovalutato questa nuova procedura appunto di invio del CUD alla popolazione dei pensionati. Detto questo, tornando invece ad internet, tra i contro della rete c'è anche il pericolo di essere truffati o derubati. La scorsa settimana abbiamo parlato per esempio di offerte di lavoro truffaldine, oggi parliamo di truffe informatiche che possono in qualche maniera sottrarci del denaro qualora appunto navighiamo sul web in maniera un po' troppo leggera. Ci possono essere sempre delle brutte sorprese in agguato quando utilizziamo internet per esempio per i nostri acquisti o per la gestione del nostro denaro. Abbiamo rubato qualche idea ai colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore, che la settimana scorsa hanno dedicato a questo argomento la storia di copertina. Ve la ricordo: soldi e trappole sul web finiti nella rete. Sono sempre di più le mail fasulle che cercano di carpire i dati sensibili, cosa non fare, come limitare i danni. Clonazioni, furti di identità, phishing, ovvero quando con l'inganno siamo portati a fornire informazioni personali sensibili, sono solo alcune delle possibili situazioni. In alcuni casi possono essere prevenute, in altri casi si può soltanto correre ai ripari nel modo più rapido possibile. Allora noi oggi cerchiamo di fare il punto su questi fenomeni, raccogliendo qualche consiglio pratico, ma raccogliendo soprattutto, come sempre, le vostre testimonianze all'800240024. Scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook, sul nostro profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Buongiorno al generale Umberto Rapetto, uno dei massimi esperti italiani di sicurezza informatica, forse anzi il massimo esperto in assoluto. Generale, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buona giornata a voi, un grazie, piacere. Grazie molte, grazie anche al dottor Romano Stasi, segretario generale del consorzio Abilab, consorzio di ricerca e sviluppo sulle tecnologie abbinate alla banca. Dottor Stasi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la domanda agli ascoltatori è questa: siete mai incappati in una truffa informatica, la clonazione di una carta, il furto di identità? Cosa vi è successo? Raccontatevelo, come avete risolto la vostra situazione e appunto attraverso anche le vostre testimonianze potremmo dare molti consigli ai nostri altri ascoltatori. Prima di tutto questo però, come sempre, c'è l'appuntamento con la borsa. È una giornata allora abbastanza ferma per Piazza Affari. Milano stamattina era ripartita bene con un rialzo di circa lo 0,2-0,3-0,4%, poi ha ridotto un po' questo rialzo. Ieri Milano è stata protagonista positiva della seduta in tutta Europa con un progresso del FTSE MIB del 2,7%, quindi oggi intende assolutamente consolidare e mantenere il rialzo di ieri. Sono invece negative le altre piazze, con Parigi che segna meno 0,58%, Francoforte meno 0,07, Londra meno 0,43, era in ribasso di oltre mezzo punto anche Madrid. I migliori titoli di Piazza Affari questa mattina: abbiamo la Popolare dell'Emilia Romagna che sta segnando un rialzo di 8 punti percentuali. Per la verità vanno bene anche le altre banche. Per la BPR c'è un buon risultato naturalmente in termini di performance di borsa, grazie ai risultati appunto che sono stati comunicati proprio nelle ultime ore. Andiamo a vedere gli altri migliori titoli: A2A più 4,38%, il Banco Popolare più 4,30%, Ansaldo più 3%, Unicredit più 2,68%. C'è da dire che a quanto pare le trimestrali e i risultati definitivi del bilancio 2012 che vengono comunicati in queste ore sono largamente premiati, quasi per tutte le società. Ieri è successo per esempio a Generali, non è successo nelle ultime ore per esempio ad Adubi Banca. Generali ieri, dopo il rialzo di 9 punti, oggi segna meno 2, qualche presa di beneficio arriva inevitabilmente. E il peggior titolo è Enel Green Power, che perde 3 punti, Mediobanca meno 1,81, Enel meno 1,66%. Direi che possiamo subito lasciare la borsa e andiamo al tema di oggi. Cercheremo di esplorare, anche se il panorama è vastissimo, tutte quelle truffe informatiche nelle quali possiamo incappare, e soprattutto quelle che fanno più male sono naturalmente quelle che incidono sul portafoglio. Generale Rapetto, vengo subito da lei perché voglio sapere quali sono le nuove frontiere della criminalità informatica in cui possono incappare i cittadini. Sicuramente il furto d'identità rappresenta lo spettro che aleggia con un fare impetuoso nel nostro orizzonte. Abbiamo timore che ci possano rubare i nostri dati, ma soprattutto di sostituirsi, agire in nome per conto nostro. E purtroppo abbiamo una certa predisposizione a farci bidonare, quindi arrivano messaggi di posta elettronica, spesso veramente improbabili, e siamo pronti a replicare perché abbiamo così la convinzione errata, naturalmente, che quel messaggio possa essere importante, possa magari cambiarci la vita. E allora vinciamo la lotteria a cui non abbiamo mai partecipato, oppure riceviamo delle comunicazioni dal nostro istituto di credito, oppure da un istituto di credito con il quale non abbiamo mai avuto rapporti. Bene, in tutti i casi, nonostante la forma sgrammaticata che presenta degli abomini di natura sintattici all'interno del proprio testo, moltissimi non esitano a replicare fornendo una serie di informazioni. E anche quando l'informazione è riferita ad un conto che noi non abbiamo presso quell'istituto di credito, viene raccolta ugualmente, quindi noi andremo a inserire dati nostri personali che verranno ricostruiti con una certa attenzione da chi ha pianificato la costituzione di veri e propri database, archivi elettronici di grande dimensione, capaci di riconoscere poi se un determinato identificativo corrisponde a questa o ad un'altra banca, e quindi capaci di raccogliere informazioni che potevano sembrare così inutili. Se prima c'era una sorta di condotta attiva da parte del soggetto destinato a subire la truffa, adesso sono entrati in campo una serie di malware, ovvero di software, di programmi che hanno una connotazione, se vogliamo, maliziosa, nociva, che sono in grado di carpire, si chiamano nella fattispecie keylogger, di carpire quanto viene digitato nel momento in cui si stabilisce una connessione protetta, e quindi rubano tanto l'identificativo quanto la parola chiave e la spediscono attraverso sistemi di posta elettronica che poi naturalmente, come nei messaggi che possono ricordare ed evocare 007, spariscono e vengono autodistrutti nel giro di pochi secondi. Bene, tutto quello che viene digitato viene trasmesso a chi ha ordito questa truffa e ha utilizzato cavalli di Troia o altri software maligni, e quindi non vale nemmeno più nulla la precauzione, che è classica, di cambiare la serratura. Noi quando perdiamo una chiave, e la password di questo in pratica si va a trattare, abbiamo abitudine di cambiare subito il blocchetto della serratura per evitare che qualcuno, entrato in possesso di quello strumento per aprire, non possa servirsene. Purtroppo nel momento in cui abbiamo a bordo del nostro computer un malware, la precauzione che abbiamo sempre raccomandato, attenzione, avete inserito per errore le vostre credenziali all'interno di un sito che è sospetto, provvedete subito ad andare su quello vero e cambiate quelli che sono i poteri di accesso. Potrebbe non servire, perché se siamo con un computer contaminato, automaticamente ci potrebbe essere una trasmissione di quelle informazioni anche nel momento in cui si procede al cambiamento della parola chiave. Certo. Allora, dottor Romano Stasi dell'ABI, il segretario generale del Consorzio di Ricerca e Sviluppo sulle Tecnologie Abbinate alla Banca, ho letto una statistica pubblicata proprio anche dai colleghi del Sole 24 Ore, autori di questa inchiesta pubblicata su Plus 24 sabato scorso. È vero che il 97% delle frodi potenziali, che hanno chiaramente come obiettivo quello di andare a intercettare il conto corrente della possibilità possibile vittima. Il 97% appunto di queste frodi potenziali di natura creditizia viene bloccata dalle banche stesse. Riuscite ad intercettarle molto, molto prima che arrivino poi all'utente finale? Sì, la situazione è questa. Ci troviamo in una situazione in cui, come diceva l'ingegnere Rapetto, per un malware, per un software installato nel PC del cliente, sono state carpite le credenziali di accesso all'home banking o al mobile banking. E in queste situazioni, quindi, il frodatore cerca di realizzare un'operazione o un bonifico sull'home banking del cliente e quindi in realtà le banche hanno messo in atto una serie di strumenti di controllo e monitoraggio di come funziona l'home banking, di quello che succede sulla piattaforma di home banking, per cui i quali riescono a evidenziare se per caso quell'utente che è entrato dall'accesso con delle credenziali in realtà magari è entrato con un IP che viene dai paesi dell'est e quindi è possibile che non sia il cliente che normalmente utilizza quelle credenziali, oppure le operazioni che vengono fatte, il bonifico che viene fatto è un bonifico un po' anomalo rispetto a quelli che vengono fatti normalmente dal cliente. Ecco, in tutte queste situazioni, ma anche molte altre, la banca si mette immediatamente in contatto con il cliente per verificare e chiedere: è lei che ha effettivamente realizzato questa operazione? E il cliente può disconoscerla e quindi viene bloccata e in pratica non c'è mai l'uscita del denaro dal conto. Questo stiamo intorno al 97% delle situazioni in cui c'è un tentativo di frode. Questo però si aggiunge alla comunicazione che la banca immediatamente fa al cliente: attenzione, ha il suo PC infetto, cioè il suo PC si è infettato con un malware che ha catturato le credenziali e ha perso le credenziali. Allora, tra l'altro, adesso noi vi faremo ascoltare anche alcune delle pillole che abbiamo scritto, sempre rubacchiando ai colleghi di Plus 24, con una serie appunto di accorgimenti da utilizzare per non cadere in queste trappole. Però le truffe creditizie attraverso la rete non sono mai del tutto evitabili. Alcune precauzioni in ogni caso si possono prendere. Ce ne suggerisce con insistenza un ascoltatore che ci dice: tutti i malware che citava prima Rapetto si trovano su YouPorn, il sito più visitato dagli italiani. Ecco, per esempio, magari qualche frequentazione evitiamola, no? Se vogliamo proprio essere tranquilli, se poi proprio non riusciamo a farne a meno, sappiate che potete correre anche questo pericolo. Un primo blocco di consigli per evitare di cadere appunto in queste trappole. Sentiamo un po', per esempio, che cosa succede quando ci arriva una mail un po' stravagante. Meglio non rispondere alle mail che chiedono dati. È la via tradizionale del phishing. La formulazione in genere è molto perentoria. Se non fornisci le informazioni richieste, presto sarà impossibile accedere al tuo conto o alla tua carta di credito. Meglio non aprirle affatto. Attenti alle richieste di pagamenti, anche la multa può essere falsa. Una delle tecniche del phishing passa anche attraverso finte multe o sanzioni. Per esempio, è diffuso un virus che blocca il PC e chiede il pagamento di una sanzione pecuniaria per aver visionato film in streaming o siti illegali. Anche questa è una truffa. Per rivolgersi al proprio istituto bancario, meglio non utilizzare gli indirizzi forniti da un'email, cliccando a partire da questa. Meglio ridigitare completamente l'indirizzo internet del proprio istituto di riferimento. E in ogni caso, se c'è qualcosa che non va a proposito del proprio conto corrente, è difficile che arrivi una mail di questo tipo per sollecitarci un'attenzione. Generalmente chiama il direttore di banca o arriva una comunicazione tramite posta. Allora, vorrei sentire Paolo da Pisa subito, poi chiedo ancora un minutino di pazienza a Rossana da Ascoli Piceno, perché credo di aver capito che abbia subito una truffa proprio poco fa, e siccome il tema dell'acquisto online lo affronteremo nella seconda parte del programma, Rossana, le chiedo solo un minutino di pazienza, voglio sentire subito Paolo da Pisa. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Ci buongiorno dica. A lei. Allora, il mio caso è questo: l'anno scorso, su due conti correnti di mio padre e di mio suocero, nella stessa banca, due conti correnti, dove io avevo l'accesso online con utente e password, non con i sistemi di quindi oggi. Quindi due conti differenti, due conti differenti, Paolo, intestati a due persone diverse. Esatto, esatto, dove io avevo l'accesso via internet per controllare i conti, però l'accesso avveniva con username e password, non con i sistemi a chiavetta oggi che generano i numeri, quindi molto sicuri, no? È successo che conti fermi da anni, che non si facevano movimenti, passaggi, niente. Succede che dall'oggi al domani mio padre va in banca e trova il conto a zero. Prosciugato. A zero. Il mio suocero, 3 giorni dopo, a zero anche lui. In buona sostanza, sono stati fatti dei prelevamenti in una giornata, 18 operazioni da 400 euro l'una per ricarica carte. Non si sa dove, da quale parte del mondo. Quindi in una giornata 18 operazioni, questo tutto nel giro di 15 giorni è stato seccato sia l'uno che l'altro conto. Ecco, voi non ve ne siete accorti, nel senso che io capisco se tutto avviene in una giornata e magari non si può correre ai ripari, ma addirittura una operazione di prosciugamento del conto diluita in 15 giorni? Sì, a parte una giornata in cui ci sono state 18 operazioni, sì, quindi lei dice, è possibile lei consideri, mio padre ha 89 anni, lì gli ci andava la pensione, quindi era un conto di deposito, di come lo chiamare, quindi non sono conti che diciamo subivano delle operazioni di incassi, niente, conti fermi di due pensionati. E certo, quindi insomma tutto questo movimento doveva generare in qualcuno qualche sospetto. Paolo, mi aspetti lì, volevo andare subito da Stasi. So che lei non è l'uomo del mondo legale dell'ABI e si occupa appunto soprattutto di tecnologia e di sicurezza informatica, perché altrimenti non avrebbe questo incarico. Però Paolo ha anche ragione, dice, ma è possibile che la banca, due persone diverse, due conti diversi, hanno subito nel giro di poco tempo la medesima azione truffaldina? Non era proprio possibile accorgersene? Non era proprio possibile che il direttore di banca, a un certo punto, vedendo tutta questa movimentazione, lo chiamasse, queste due persone, per dire: guardate, sta succedendo qualcosa di strano, siete voi, non siete voi a fare tutto questo? Intanto, dal punto di vista generale, c'è una normativa europea recepita a livello poi di Banca d'Italia che parla appunto degli obblighi dalla parte della banca e del cliente rispetto alle operazioni disconosciute. Qui parliamo di una serie di operazioni che naturalmente il cliente non riconosce come proprie, ma sono state fatte da un frodatore. Ecco, in questi casi, a meno di un comportamento non diligente, la Payment Service Directive, cioè questa normativa europea, dice che comunque la banca è tenuta a rifondere il cliente. Queste sono quello che può in questo momento la norma dice rispetto a queste tipologie di operazioni. Sicuramente ci potevano essere delle ulteriori attenzioni. Il problema, mi permetto di evidenziare, è partito dalla perdita di credenziali che è avvenuta, mi permetto di dire, quasi sicuramente nell'ambito del PC o dell'utilizzatore di questi conti online, i quali appunto sicuramente involontariamente è stata data visibilità ai frodatori, mi hanno catturato e poi effettuato le operazioni. Due persone. Generale Rapetto, un commento anche da parte sua, poi la prima pausa su questo caso. È comprensibile il dispiacere di vedersi svuotare il conto, e soprattutto è ancor più così normale, naturale, che si abbia la percezione di essere stati lasciati, abbandonati. Il fatto che non ci siano stati meccanismi che riconoscevano una certa anomalia comportamentale da parte dell'utente intestatario di quel conto, perché fare tutte quelle movimentazioni, per quale motivo muoverli verso una carta, quindi anche la tipologia dell'operazione che veniva svolta, al di là della frequenza e soprattutto dell'entità dell'importo, avrebbero dovuto far scattare quei meccanismi di auditing che vanno a bloccare materialmente un improprio utilizzo, anche se fossero mai state fatte dal soggetto titolare in piena legittimità. Questo avrebbe potuto, una volta trovatosi il conto bloccato, spiegare le ragioni di quanto stava accadendo. Infatti. Naturalmente questo è segno che la cultura della sicurezza non è ancora arrivata a raggiungere quei livelli che garantiscono, con una buona prevenzione, situazioni che sono sicuramente imbarazzanti. Il fatto di deviare i soldi verso le carte in pratica rende, e le carte spesso non sono riconducibili a soggetti, mentre invece con i conti, così come avveniva con il phishing di vecchia maniera, diciamo la versione 1.0, si arrivava comunque a identificare il percettore di quelle somme. In questo caso si finiscono su carte che sono carte ricaricabili, intestate a soggetti magari non esistenti, residenti in giro per il mondo, e quindi una volta entrati nel circuito finanziario del pagamento fatto attraverso strumenti elettronici, se ne perde le tracce e viene verificata anche la possibilità di arrivare a un buon esito con le indagini. Controllando spesso l'home banking si ha la possibilità di tenere sott'occhio i propri conti e accorgersi subito se sono state effettuate delle operazioni non autorizzate. È meglio approfittare di questa occasione per mettersi al riparo in tempo. È importante attivare i sistemi di protezione forniti dalla propria banca. Si tratta di strumenti forniti dall'operatore che possono rendere più sicuro l'utilizzo e testimoniare la buona fede dell'utente. E allora stamattina parliamo di truffe creditizie attraverso la rete, attraverso l'utilizzo di web, e queste erano alcune delle pillole, alcune delle raccomandazioni che abbiamo sintetizzato questa mattina per tutti coloro che magari per fortuna fino ad ora non sono incappati in questi problemi, ma siccome il pericolo è sempre in agguato è bene sempre sapere anche come muoversi in via preventiva e non in via successiva quando il danno è già stato fatto. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ci stanno arrivando anche tantissimi messaggi al 349-238-6666 e ce ne sono alcune anche di carattere così tecnico che devo tra poco necessariamente girarle ai nostri ospiti. Prima però volevo sentire Davide da Milano per capire cosa gli è successo e poi tanti commenti anche da parte di chi come Vincenzo su Twitter che ci scrive: nella stragrande maggioranza dei casi comunque colpa è anche un po' nostra, dell'ingenuità delle persone. È vero Vincenzo, però è anche vero che il più sicuro di tutti può anche avere la sfortuna di incappare suo malgrado in una disavventura, perché c'è sempre qualcun altro accanto a noi ancora più furbo di noi e più sicuro di noi. Davide da Milano, buongiorno, cosa le è successo? Sì, buongiorno. Io pensavo di essere furbo, invece mi è capitato l'estate scorsa un inconveniente. Praticamente ho comprato un biglietto aereo su iDreams. Mm-hmm. Un noto sito. Sì, sì, un'agenzia viaggi online, esatto. Che lavora moltissimo, peraltro, sì. E era la prima volta e sono stato rimandato, questo l'ho scoperto 3-4 mesi dopo, su un altro sito. Praticamente io avrei acquistato il biglietto tramite un secondo sito che si chiama Acquisti e Risparmi. E niente, questo sito si promette di far comprare oggetti online a prezzi vantaggiosi, solo che richiede 12 euro di tassa fissa al mese. Ah. Che vengono scalati dalla carta di credito. È riuscito a staccarsi da loro? Sì. Davide, o ancora sta lì a pagare, a versare questi 12 euro mensili? No, sono riuscito, però siccome ho detto qui c'è qualcosa che non va, mi sembrava, sono andato a vedere su Google a cercare il nome di questo sito e ho scoperto che tra le prime voci quando viene trovato molta gente chiede come faccio a togliermi dal sito. Ah. Quindi non è che io sono stato fesso, diciamo, però è capitato anche a molte altre, certo, persone. Davide, la ringrazio molto. Generale Rapetto, questa vicenda è però una vicenda a metà strada tra la truffa, diciamo, la pratica commerciale scorretta? Siamo molto vicini alla pratica commerciale non solo scorretta, ma truffaldina, per metterle insieme tutte e due. Adesso però, per carità, siccome i signori di Dreams li conosco anche piuttosto bene, per la verità poi ho già la curiosità di andare a cercare di capire come che tipo di relazioni abbiano anche con siti promozionali aggiuntivi alla loro attività. Ecco, Rapetto. Spesso le dinamiche commerciali portano così ad un impegno che travalica le intenzioni, quindi la disattenzione oppure la leggerezza da parte di chi sottoscrive un accordo per poter fruire di certi vantaggi spesso sfocia nella constatazione che questi vantaggi non ci sono oppure sono vanificati da clausole che nessuno mai va a leggere, quindi ci vorrebbe forse un pochino più d'attenzione quando, pronti a lasciarsi incendiare dall'entusiasmo, dovremmo invece avere così quel briciolo di cautela nel verificare la percorribilità di quello che ci viene candidato come soluzione ottimale. Non solo, di solito andiamo a fare le ricerche per verificare se quella certa sigla, se quell'entità è presente abbinata alla parola truffa, scam o altro attraverso i motori di ricerca. Bene, anziché farlo dopo, perché non avere così il briciolo di prudenza di compiere quella ricerca sui motori normalmente utilizzati per poter scandagliare la rete, per verificare se già qualcuno si è lamentato e in quali disavventure possa essere incappato. Allora, tra l'altro, adesso volevo sentire Franco da Bologna, perché tra l'altro il suo suggerimento è anche quello che ci indica un altro ascoltatore che ci ha scritto, e adesso vado a ripescarmi anche questa mail. Francesco ci dice anch'io, lui dice giustamente, fa questo ragionamento come facciamo tutti tutti quanti. Non capisco ancora come possono esserci tante persone che si fanno abbindolare da messaggi fasulli. Anch'io li ricevo, mi ci diverto ad inserire dati fasulli nella speranza che se tutti lo facessimo intaseremo di spazzatura i loro database. Generale Rapetto, non è che anche questa è una sciocchezza? Comunque, anche mettendo magari dati fasulli, comunque è un'interazione con questi altri soggetti che si trovano dall'altra parte. Non vorrei che anche questo fosse comunque un errore nel tentativo invece di fare i furbi. Ma fare i furbi serve a poco, teniamo conto che dall'altra parte non c'è soltanto una persona, ma ci sono macchine. E il fatto che ci siano macchine ci fa pensare che il nostro PC venga scandagliato e tutte le informazioni digitate comunque abbiano un fondo di verità. Molto, molto banalmente, magari si utilizza la stessa password che si utilizza normalmente per le cose vere e quella password è talmente inusuale che facendo un piccolo incrocio di dati permette di risalire ad un indirizzo di posta elettronica vettiero oppure ad altre attività che uno ha posto, un'iscrizione a un social network, magari LinkedIn che è uno professionale. E allora si va a spianare la strada a chi abbia cattive intenzioni. Allora, sentiamo allora proprio a proposito dell'intasamento delle mail dei malfattori. Franco da Bologna, lei che cosa fa? Buongiorno carissima, sono in pensione ma sono lavorato per le banche e anche sui bancomat dal 75. E comunque sia, quando mi arrivano queste mail fasulle, io appositamente entro, metto una password a caso, proprio una a caso inventata, e se il sito non risponde, non mi dice che la password è sbagliata, questo significa già che è una truffa. Poi la inoltro immediatamente alla polizia postale, poi esco da internet, rientro subito, rientro in questa mail, in questo indirizzo sbagliato, e automaticamente la polizia postale me l'ha già chiuso e si vede la banda rossa con scritto attenzione pericolo phishing. E quindi questo qui è una, sono due prove abbastanza serie. Certo. E comunque sia, ecco, l'importante, come ho fatto io, che io ho due conti correnti, tutti e due li adopero con le chiavette di conferma se per caso devo fare un bonifico o un pagamento, perché oltre all'ID e la password, se c'è anche la chiavetta col codice di conferma, la cosa è super sicura, e questo lo garantisco come ex programmatore di Bancomat. Grazie molte Franco. Dottor Stasi, la chiavetta di conferma che cos'è, visto che ha citato il sistema bancario? Una password, quindi un numero generato casualmente, appositamente per rafforzare la sicurezza di quella singola operazione che il cliente sta facendo, a disposizione del bonifico, quindi sicuramente aggiunge e rafforza molto la sicurezza rispetto a una password statica, cioè scritta e definita una volta per tutte, magari aggiornata periodicamente, mentre la one time password, cioè la password che si utilizza una volta sola con la chiavetta, sicuramente rafforza. Mi permetta solo di aggiungere due cose rispetto agli interventi precedenti. In generale questo interagire con delle richieste via email, anche pensando di conoscere un po' l'approccio che utilizzano i frodatori, è sconsigliabile, infatti. Perché in realtà non, la maggior parte delle credenziali dei dati non si perdono in modo conscio mettendo le informazioni su un sito da qualche parte, ma si perdono con questi micro software, questi malware, questi virus che si installano involontariamente cliccando su un allegato della mail, cliccando su un link che la mail evidenzia, quindi e si installano a quel punto sul PC e il cliente non ha la percezione di aver dato dei dati propri, personali, ma in realtà si è fatto installare, ha dato una specie di autorizzazione con il click a installare il software nel proprio PC. Quindi è molto importante, una volta compreso che sono email non corrette, non cestinarle. In più rafforzare la sicurezza del PC con antivirus, firewall, tutti quegli strumenti software che danno forza alla sicurezza del proprio PC. Un'altra battuta mi permetta solo, è importante monitorare il proprio conto, le proprie carte, non solo andando sul sito di home banking o di, ma attivando gli SMS di segnalazione, gli alert, anche, sì. Gli alert che arrivano sul cellulare. Questo può essere un modo per monitorare se ci sono operazioni che uno non conosce, anche un pagamento come rispetto al sito che che gli dà l'abbonamento anche senza averlo richiesto, di cui parlava prima, quando viene accreditato la carta si accorge che non l'ha mai autorizzato, allora magari il primo può andare in porto ma quelli successivi no. Quindi queste sono sicuramente interazioni veloci che una volta ricevuto l'SMS il cliente può fare con la banca dicendo io questa operazione non l'ho fatta e la blocca subito. Allora, tra l'altro in molti ci stanno scrivendo anche chiedendoci che cosa succede qualora appunto attraverso una clonazione di una carta di credito di un bancomat se la banca è chiamata a rifondere o meno. Per la verità anche qua ci sono dei comportamenti abbastanza differenziati da parte del sistema bancario, c'è chi rifonde immediatamente, chiaramente bisogna proprio appurare anche la tipologia di truffa, è chiaro che un attimo la banca deve verificare anche che cosa è successo, perché se è chiaro che l'azione è truffaldina come quella che abbiamo indicato nella nostra trasmissione, la banca non può fare altro. Se invece c'è un po' di leggerezza da parte del legittimo proprietario appunto di questa carta, allora magari qualche volta si fa più fatica a farsi risarcire. Però magari questo potrebbe essere oggetto di un altro appuntamento con Salvadanaio. Oggi cerchiamo proprio di capire quali tipologie di truffe possiamo possiamo incappare, e adesso però dobbiamo incappare nei suggerimenti per chi è in viaggio. A tra poco. La difesa contro i sistemi di frodi creditizie passa anche attraverso l'utilizzo di un sistema antivirus costantemente aggiornato. Il mancato aggiornamento dei sistemi può pesare in fase di contenzioso sul risarcimento. L'attendibilità è preziosa quando si forniscono gli estremi della carta di credito, ad esempio quando si fa un acquisto online. In questi casi occorre controllare sempre che la pagina sia contrassegnata dalla presenza di un lucchetto e caratterizzata nella barra degli indirizzi del browser di navigazione dall'estensione HTTPS anziché HTTP. Roberto Liscia, presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Fresca fresca le faccio sentire un'ascoltatrice, Rossana, che è incappata proprio, credo, poche ore fa in una disavventura online con un acquisto attraverso le modalità del commercio elettronico. Rossana, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti tutto. Guardi, il presidente a portata di mano con il quale lamentarsi. Perfetto. Allora, no, per carità. Dunque, io ho effettuato un acquisto in realtà domenica su un sito di cui esiste di fatto il punto vendita. L'unica cosa che il sito a cui poi io mi sono incollegato aveva l'extension online. E quindi ho effettuato tutta la procedura d'acquisto perfettamente, inserendo i dati relativi e il pagamento. No, non chiedo l'azienda, cosa stava comprando, Rossana? Un cellulare. Okay. Un cellulare. Alla fine è anticipato il pagamento con metodo anticipato con PostePay, e già questa cosa mi è suonata un po' male, però sembrava tutto assolutamente regolare. Dopodiché, quando ho dato l'ok per il pagamento, mi è arrivata anche la mail di conferma d'ordine con numero d'ordine, numero di cliente, tutto. Quindi quanto. Sembrava tutto a posto. Tutto perfettamente a posto. Lunedì vado a effettuare il pagamento attraverso il metodo indicato e consegna entro 12-48 ore. Non arriva niente fino a questa mattina. Telefono al negozio fisico, il quale mi dice che il 27 di febbraio ha effettuato una denuncia perché gli erano stati sottratti tutti i dati sensibili ed effettivamente c'è una truffa in corso a suo nome. E quindi Rossana non lo sapeva, certo, lei avrebbe dovuto quindi di fatto io ho avuto l'addebito sul conto della cifra, perché ho pagato imposta però con Bancomat, e adesso sto cercando di capire se in qualche modo posso fare qualche cosa. Quindi teoricamente lei si era rivolta, Rossana, alla versione online di una grande catena di commercio elettronico. Di beni di consumo di questo tipo. Rossana, grazie. Presidente Liscia, è a conoscenza di questa situazione? Adesso non so se se dai parametri generali che abbiamo avuto magari è difficile risalire, però... Certo, allora la situazione è la seguente, partiamo dal numero. Il numero di disconoscimenti di acquisti fatti dai compratori italiani dall'indagine che facciamo col Politecnico è lo 0,12%. Cosa vuol dire disconoscimenti? Cioè il fatto che un cliente dice io non ho effettuato quell'acquisto, oppure quell'acquisto non volevo farlo, oppure mi è arrivata la merce sbagliata. È all'incirca meno dell'1 per mille. Quindi sono tutti consapevoli gli acquisti che si fanno? Assolutamente, ecco. Sono cifre assolutamente ridotte. Normalmente il 95% di questi disconoscimenti poi viene di fatto rimborsati, perché ci sono state magari delle non comprensioni con il venditore. Esistono però, detto questo, una piccolissima percentuale di fenomeni truffaldini come quelli che sono stati esplicitati dalla ascoltatrice. Noi stessi ne abbiamo rilevati un certo numero, e a questo proposito, proprio per questo, abbiamo deciso di lanciare un sigillo dove noi come Netcom andiamo a verificare i siti, e dopo averli verificati diamo un sigillo dove il compratore può, quando arriva sul sito, cliccando sul sigillo, venire sulla pagina di Netcom per verificare l'esistenza di quel sito. È molto, sarà difficile vedere questo sigillo, Presidente? No, perché non vorrei che magari vi clonano anche quello. L'hanno clonato. Ah, ecco. L'hanno clonato, però la differenza è che, pur avendolo clonato, quando uno clicca su quello clonato non arriva alla nostra pagina, quindi in realtà si capisce chiaramente che è un clone, e quindi di fatto non è un elemento di garanzia. Detto questo, è chiaro che ci sono, diciamo, delle truffe, ma che rappresentano una percentuale ridottissima del fenomeno dell'acquisto online, come dicevo, al di sotto dell'1 per mille. Questi fenomeni qua vanno denunciati, sono fenomeni criminali che devono essere chiaramente interrotti attraverso gli organi di vigilanza. Cosa può fare per esempio Rossana in questo caso? Volete avere una segnalazione intanto più precisa di questo caso, Presidente, gliela facciamo mandare. Rossana magari scrive a noi, poi io così per curiosità sua gliela giro. Assolutamente sì. Oscar da Modena, rapidissimo, perché stiamo chiudendo, perché il tema della denuncia a chi farla è molto importante. Oscar, buongiorno, se ce la fai in 20 secondi, grazie. Buongiorno, guardi, niente, io praticamente anch'io sono stato truffato su eBay, tra l'altro neanche un sito sconosciuto, e sono andato in polizia postale, ho fatto la denuncia dove praticamente in PostePay, qui la signorina, tra l'altro la conoscevo, mi ha dato conferma che era attiva la scheda, che era attivo tutto quanto, la polizia postale non ha fatto assolutamente niente. Erano 280 euro, non era una cifra allucinante, però sono grossi, ma lì bastava solo che loro, con gli strumenti che hanno, andassero a guardare dove abitava questo signore, perché era attiva il conto corrente era attivo, bastava solo che andassero a guardare, e gli avessero detto: restituisci i soldi, buonanotte, ma non è così. Oscar, grazie. Allora, noi stiamo chiudendo, tra l'altro abbiamo perso Rapetto, chiudo con Liscia, 30 secondi, Presidente. La polizia postale è l'unica figura alla quale denunciare quando capitano queste cose, oppure abbiamo anche altri sistemi? Ce la fai in 10 secondi a darci due suggerimenti? La polizia postale è quella più attiva in questo momento sulle truffe online, però ovviamente anche gli altri organi di polizia sono assolutamente organi che possono essere attivati in questo caso, e quindi non è l'unica forza di polizia o forza di vigilanza attiva. È chiaro che man mano che si sviluppano queste piccole truffe, il problema diventa dei volumi, nel senso che capisco che la polizia postale abbia difficoltà di intervenire sulla pluralità delle... anche perché, come dico io sempre, oltre che dei furbi, la madre dei malviventi è sempre incinta. Grazie a Roberto Liscia, Umberto Rapetto, Romano Stasia, Marco Lombardo, Rudy Cantadori. Torniamo lunedì da Deborah Rosciani. Buon fine settimana a tutti.